Il gruppo editoriale L'Espresso, in collaborazione con il gruppo editoriale L'Espresso, presenta Tenente Aaron Van Wyk, tenente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Aaron Van Wyk, marito di Tenente Aaron Van Wyk. Elizabeth Van Wyk, moglie di marito di Aaron Van Wyk. Arthur Midas, fratello, moglie di marito di e figlio di Elizabeth Van Wyk e di Margaret Van Midas in Van Wyk. Margaret Midas, madre di Elizabeth Van Wyk. George Baxter Midas. Francine Grant Grant. Marcy Hammond Grant. Agente Banks, marito di Tenente Colombo. Thank you.